Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, come vedete dalla splendida rappresentazione, quello è un quadro, spero che lo conosciate, del grande Caravaggio, mio pittore preferito. Abbiamo Giuditta che taglia la testa a Oloferne, quindi questa sera seguiremo la storia biblica di Giuditta, e quindi l'omonimo libro di Giuditta, che viene subito dopo il libro di Tobia, anch'esso annoverato tra i libri storici. Ecco, vi dico subito una premessa, insomma, che Giuditta è la prima che incontriamo delle eroine dell'Antico Testamento che sono state interpretate poi dalla tradizione della Chiesa come immagini tipologiche, quindi figure bibliche tipologiche della Madonna. Ecco, ciascuna secondo un aspetto particolare. C'è Giuditta, veramente abbiamo già vista una in parte che qualcosa ce l'aveva, che era Anna, la madre di Samuele. Ci sarà Esther, ci sarà Ruth, la sposa del Cantico dei Canti. Ci sono diverse le figure dell'Antico Testamento che poi nella tradizione cristiana sono state appunto viste e interpretate come immagini prefigurative, sotto alcuni aspetti particolari, di ciò che la Madonna avrebbe avuto in pienezza sotto tutti i punti di vista. Ecco, quindi questa sera seguiremo la storia di questa grandissima donna dell'Antico Testamento, sperando che alcune donne che stanno qui prendano esempi buoni. Allora, quella faccia brutta che vedete nella slide è un'immagine di Nabucodonosor. Ora, tenete presente che purtroppo non si sa bene perché, questo sarebbe da studiarlo bene, soprattutto da andare a vedere, purtroppo non ho avuto tempo di farlo, per esempio un San Girolamo, che era molto attento a queste cose, come ha interpretato, sicuramente lui ha commentato tutti i libri della Bibbia, quindi sicuramente ha detto qualcosa anche su questo e su ciò che sto per dirvi, nel senso che ci sono delle almeno apparenti imprecisioni storiche. Nel senso che, se vi ricordate la storia, Nabucodonosor era un imperatore babilonese, ma l'ambientazione della storia di Giuditta è sempre la Siria, come abbiamo già visto nella storia di Tobia, e Nabucodonosor viene presentato come re della Siria, e Oloferne viene presentato come il suo luogotenente generale, crudele, così come Nabucodonosor. Quindi non si capisce bene il perché di questo mistero, insomma. Gli esegeti moderni però questa linea secondo me non è da seguire, e non è da seguire per un motivo molto semplice, perché questo è annoverato tra i libri storici anche nella tradizione ebraica, quindi non si può, dinanzi a mio parere un libro storico, dire ma no, qui la storia non conta niente, il racconto se lo sono inventato per dare un insegnamento paranetico, vuol dire morale di tipo esortativo. Non si può dire una cosa di questo genere, secondo me. Quindi sta di fatto che questa anomalia rimane e vi deve essere insomma detta ad onor di causa. Allora, questo Nabucodonosor, come tutti i megalomani, a un certo punto si mette in testa, diciamo così, di opprimere in maniera un po' cogente i popoli a lui sottoposti. Voi vi ricordate che Israele, il regno del nord, era stato posto sotto assedio dall'Assiria e completamente distrutto nel 731, quindi c'è stato un periodo, primo periodo storico dopo i grandi re Saul, Davide e Salomone, e è noto, diciamo così, come il tempo della dominazione assira, poi seguita dalla dominazione babilonese, ve la ricordo, poi persiana e poi greca, sono queste le quattro tappe, diciamo, e poi l'andata ultimo, quella che ha poi coinvolto Gesù, la dominazione romana. Quindi il contesto storico è questo, c'è questa situazione di difficoltà e di sofferenza grande del popolo ebraico quando viene a sapere che Nabucodonosor, attraverso questo suo super luogotenente e spietato, intendeva porre a ferro e fuoco i regni a lui in qualche modo soggetti e vassalli. Ecco, vediamo, quindi saltiamo i primi tre capitoli, se andiamo a leggere i primi tre capitoli c'è un po' questa ambientazione storica, i dialoghi tra questo imperatore Oloferne, eccetera. Andiamo invece a vedere come Israele reagisce dinanzi a questa prospettiva. Qui direttamente passiamo al capitolo 4, i versetti 1, 3 e poi 9 e seguenti. Quando gli Asiriti, che abitavano in tutta la Giudea, appresero quello che Oloferne, il comandante supremo di Nabucodonosor, aveva fatto agli altri popoli e come aveva messo a sacco i loro templi e li aveva votati allo sterminio, furono presi da indicibile terrore di fronte a lui e trepidarono per Gerusalemme e per il tempio del Signore loro Dio. Essi erano tornati da poco dall'esilio e di recente tutto il popolo si era radunato in Giudea. Gli arredi sacri e l'altare e il tempio erano stati consacrati dopo la profanazione. Andiamo direttamente al versetto 13, siamo nel capitolo 4. Il Signore ascoltò il loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione, mentre il popolo digiunava da molti giorni e in tutta la Giudea e Gerusalemme davanti al santuario del Signore Dio Onnipotente. Tenete presente che prima era stato notato che gli israeliti, versetto 8, con le mogli, i bambini, i loro armenti e ogni forestiero necessario, e i loro schiavi, i mercenari, scusate, i loro schiavi, si cinsero di sacco i fianchi. Al versetto 14, il sommo sacerdote Joachim e tutti gli altri sacerdoti che stavano davanti al Signore e tutti i ministri del culto divino, con i fianchi cinti di sacco, offrivano l'olocausto perenne, i sacrifici votivi e le offerte spontanee del popolo. Avevano cosparso di cenere i loro turbanti e invocavano intensamente il Signore perché provvedesse benignamente a tutta la casa di Israele. Tanto per inciso, vedete come il segno delle ceneri, l'abbiamo già trovato, già la seconda volta che lo troviamo, che viene fatto il mercoledì santo, è un segno penitenziale di origine biblica, perché i popoli orientali facevano come penitenza, tra le altre cose, mettersi la cenere sulla testa, come voi ovviamente fate ogni volta che dovete avere qualche richiesta importante al nostro Signore. Così come il famoso, c'è un sacco di gente che dice, ma Don Leonardo, che cos'è il cilizio? Ecco, il vestirsi di sacco è una forma di cilizio. Andate al supermercato, vi comprate un bel saccone di juta, gli fate un bel intaglio e ve lo mettete addosso, come tu fai tutti i giorni, e per chiedere al Signore qualche grazia particolare. Quindi sono gesti di origine biblica, quindi non stupitevi quando poi leggete che i santi facevano tante queste cose, perché sono cose che si facevano fin dai tempi remoti. A un certo punto, nel quinto capitolo, compare un personaggio particolare, questo Achior, che ha un dialogo, adesso ne seguiremo qualche passaggio, con Oloferne o Nabucodonosor, adesso vedremo che non mi ricordo mica tanto bene, per avvertirlo che non è consigliabile andare in guerra contro gli israeliti, perché se questi stanno in peccato si può pure fare, ma se non stanno in peccato, che ci si mette il Padre Eterno di mezzo, è meglio lasciare perdere. Adesso andiamo un attimo a seguire qualche stralcio. Ecco, a Oloferne fu riferito, versetto 1, che gli israeliti si preparavano alla guerra e avevano bloccato i valli montani, e andò su tutte le furie e quindi convoca sti capi e gli dice, ma spiegatemi un po', ma che popolo è questo che dimora sui monti? Sapete che i figli di Dio sono sempre un po' strani, quindi dice, ma questi chi sono? Cosa fanno? Allora gli rispose Achior, condottiero di tutti gli ammoniti, dice, ascolti bene il mio signore la risposta delle labbra del tuo servo, io dirò la verità sul conto di questo popolo. Versetto 7, essi dapprima soggiornarono in Mesopotamia perché non vollero seguire gli dei loro padri che si trovavano nel paese dei Caldei. Abbandonata la via dei loro antenati, adorarono il Dio del cielo, quel Dio che essi avevano riconosciuto, perciò quelli li scacciarono dalla presenza dei loro dei ed essi fuggirono in Mesopotamia e là soggiornarono per molto tempo. Ma il Signore Dio comandò loro di uscire dal paese che li ospitava e di andare nel paese di Canaan. Qui sto parlando di Abramo, eh? Poi scesero in Egitto, andiamo avanti perché la fame, eccetera, eccetera. Versetto 12. Alzarono supplica loro Dio ed egli percosse tutto il paese d'Egitto con le piaghe per le quali non c'era rimedio. Va avanti, racconta tutta la storia, quindi la conquista della terra promessa, cacciarono lontano da sé il Cananeo, il Perizzeo, il Gebuseo, eccetera. Finché non peccarono contro Dio, erano nella prosperità, versetto 17, perché un Dio che odia il male è in mezzo a loro. Quando invece si allontanarono dalla via che aveva loro disposto, furono terribilmente sconfitti in molte guerre. Vi ricordate tutto il libro dei Giudici? Gli israeliti ricominciarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore, ed egli ripose nelle mani dei filistei. condotti prigionieri in paese straniero, il tempio del loro dio fu raso al suolo e le loro città furono conquistate dai loro nemici. Ma ora, convertiti al loro dio, hanno fatto ritorno ai luoghi dove erano stati dispersi, hanno ripreso possesso di Gerusalemme, dove è il loro santuario, e si sono stabiliti sulle montagne che prima erano deserte. Ora, mio sovrano e signore, se vi è qualche colpa in questo popolo perché hanno peccato contro il loro dio, se cioè ci accorgiamo che c'è loro questo impedimento, avanziamo e diamo loro battaglia. Se invece non c'è alcuna iniquità nella loro gente, il mio Signore passi oltre, perché il loro Signore e il loro Dio non si faccia scudo per loro, e noi diveniamo oggetto di scherno davanti a tutta la terra. Quindi Achior annuncia una grande verità che è buona anche per noi. Cioè, fino a quando stiamo in amicizia con Dio non dobbiamo temere gli assalti dei nemici. Viceversa, quando perdiamo l'amicizia con Dio siamo vulnerabili. Questi, anziché ascoltare quello che dice Achior, decidono di consegnarlo in mano agli israeliti. E questa è la situazione che si determina. A questo punto, nel capitolo seguente, ecco, appunto, come vi accennavo, anziché calmarsi, Oloferne si arrabbia, comincia a fare una serie di discorsi un po' superbetti e decide di consegnare questo Achior, principe degli Ammoniti, nelle mani degli israeliti. Anche qui leggiamo qualche piccolissimo stralcio per farci capire un po' chi era questo. Cessata l'agitazione della gente, parlò Oloferne, comandante supremo dell'esercito di Assur, rivolgendosi ad Achior. Chi sei tu, Achior, e voi mercenari, per profetare in mezzo a noi come hai fatto oggi e suggerire di non combattere il popolo di Israele, perché il loro Dio li proteggerà dall'alto? E chi è Dio se non Nabucodonosor? Questi manderà il suo esercito e li sterminerà dalla faccia della terra. Né il loro Dio potrà liberarli. Saremo noi, suoi servi, a spazzarli via come un solo uomo, perché non potranno sostenere l'impeto dei nostri cavalli. Li bruceremo in casa loro. I loro monti si inebriranno del loro sangue, i loro campi si colmeranno dei loro cadaveri, né potrà resistere la pianta dei loro piedi davanti a noi, ma saranno completamente distrutti. Questo dice Nabucodonosor, il signore di tutta la terra. Così ha parlato e le sue parole non potranno essere smentite. Poi continua e decise di consegnare questo Achior in mano a Israele. Tenete presente che, come Giuditta è figura della Madonna, Oloferne è figura del demonio. Quindi in questi suoi ragionamenti c'è tutta la superbia e la tracotanza tipica del nemico della nostra salvezza, che nonostante che sa di combattere sempre battaglie perse, perché è proprio uno stupido, ciò non di meno le combatte. E che vogliamo fare, insomma? Solo che differentemente da quello che si pensava, allora gli assiri, sotto la guida di Oloferne, dice: va bene, mettiamo sotto assedio Israele, e mettono sotto assedio la località chiamata Betulia e praticamente ordiscono per dove erano rifugiati dignitari, insomma, i membri elevati, compreso il re Ozia di Israele. La mettono sotto assedio e a un certo punto decidono, per farli capitolare, di tagliare gli approvvigionamenti di acqua, quindi farli morire di sete, e ci stavano riuscendo. E a un certo punto gli israeliti cedono, cominciano ad andare dei segni di cedimento, dicono: arrendiamoci, perché altrimenti facciamo tutti quanti la fine del topo. E Ozia, al termine del capitolo 7, fa questo discorso che adesso ascolteremo, re degli israeliti, dal versetto 24 al versetto 32. Allora, tutto il popolo si radunò intorno a Ozia e ai capi della città, con giovani, donne e fanciulli, e alzando grida dissero davanti a tutti gli anziani: sia giudice il Signore tra voi e noi, perché voi ci avete recato un grave danno rifiutando di proporre la pace agli assiri. Ora non c'è più nessuno che ci possa aiutare, perché Dio ci ha venduti nelle loro mani per essere abbattuti davanti a loro dalla sete da terribili mali. Ormai chiamateli e consegnate l'intera città al popolo di Oloferne e a tutto il suo esercito perché la saccheggino. È meglio per noi essere loro preda. Diventeremo certo loro schiavi, ma almeno avremo salva la vita, e non vedremo con i nostri occhi la morte dei nostri bambini, né le donne e i nostri figli esalare l'ultimo respiro. Chiamiamo a testimone contro di voi il cielo e la terra e il nostro Dio, il Signore dei nostri padri, che ci punisce per la nostra iniquità e per le colpe dei nostri padri, perché non ci lasci più in una situazione come quella in cui siamo oggi. Vi fu allora un pianto generale in mezzo all'assemblea, a gran voce gridarono supplica al Signore Dio. Ozia rispose loro: coraggio, fratelli, restiamo ancora 5 giorni, e in questo tempo il Signore nostro Dio rivolgerà di nuovo la sua misericordia su di noi. Non è possibile che egli ci abbandoni fino all'ultimo, ma se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà alcun aiuto, farò come avete detto voi. Così rimandò il popolo, ciascuno al proprio posto di difesa, ed essi tornarono sulle mura e sulle torri della città e rimandarono le donne e i figli alle loro case, ma tutti nella città erano in grande costernazione. Allora, vedete, quindi la situazione volge verso il dramma, quindi sembra che non ci sia scampo. Allora, tenete presente che c'è una particolarità dell'agire di Dio nella storia della salvezza, che questa situazione si viene a determinare sempre. Cioè, a me personalmente mi dà quasi l'impressione che il Padre Eterno lo faccia un pochino apposta, nel senso che prima di dare le suonate al diavolo, lo fa arrivare a un punto tale che sembra praticamente sempre al limite, cioè sembra che sia la fine, cioè che non ci sia più niente da fare e che lui abbia vinto. Se voi fate caso, in tutta la storia della salvezza, pensate per esempio al libro dell'Esodo che abbiamo fatto, quando Israele scappa, le 10 piaghe, cioè si arriva a un grado di oppressione di cose, gli buttano, vi ricordate, ordina di uccidere tutte quante i figli primogeniti maschi, ordina alle donne di buttare tutte, cioè si arriva sempre a un grado di oppressione tale che non ce se la fa più. Se fate caso, la passione della morte di Gesù è la stessa cosa, cioè prima di arrivare all'alba di Pasqua c'è stato il momento, lo dice anche il Signore nel Vangelo, la vostra ora è l'impero delle tenebre. E guardate che così saranno anche le ultime battaglie profetizzate nel libro dell'Apocalisse. Una è quella, io l'ho detto già altre volte, questa è un'idea mia personale, in cui la situazione in cui ci troviamo adesso. E non so se avete sentito, perdonate, in recentissimi fatti di cronaca, sapete che potrebbe essere molto imminente lo scisma della Chiesa d'Austria. Avete seguito queste? No, sono rimbalzate sui media, vi faccio vedere. Allora, lì c'è un matto, un prete, che però pare che ci abbia molto successo, che si è messo a convogliare tutta una sorta di malcontento circolante, perché, vabbè, adesso dovrei dire delle cose, insomma, le stupidaggini, gli errori fatti. Che cosa vogliono questi qua? Praticamente questi non sono mica contenti delle già numerosissime e a mio avviso anche eccessive concessioni fatte a livello di vario tipo disciplinare e altro dalla Chiesa, vogliono ancora, d'accordo? Tipo, se leggete gli articoli che circolano nel web, dice: un prete che si innamora di qualcuna deve essere rispettato nella sua coscienza, perché se la sua coscienza dice che non fa niente di male, non fa niente di male, e non può per questo essere frustrato, angariato, continuare a fare il prete, eccetera. Peggio ancora quelli che invece hanno dovuto lasciare il ministero perché volevano sposarsi. Chi siamo noi per imporre questi pesi a questi poveri disgraziati che soffrono tanto, non possono più fare i preti? Perché, cioè, queste sono soltanto due delle tante cose che vengono dette. E non ve ne dico tante altre che allora, se uno sa tante situazioni, ci sono sempre, ma questo è stato, per esempio, pensate al macello che è successo con lo scisma luterano, o alle grandi crisi della Chiesa al tempo dell'arianesimo, cioè si arrivano sempre a dei punti che dice: oh, si salvi chi può, cioè sembra che al peggio non c'è mai fine, poi a un certo punto il Padre Eterno interviene e rovescia la situazione attraverso qualche fatto di questo genere. Io mi sono dato una risposta, cioè che non è soltanto un problema, sicuramente c'è anche la prova della nostra fede, poi lo vedremo che compare questo tema nel libro di Giuditta. Lo vedremo, perché questa sofferenza in questo caso non viene intesa come castigo. Ho detto tante volte, quando accadono delle cose brutte ci sono varie possibilità, è molto difficile in concreto capire qual è quella giusta. Una è castigo, ma c'è anche la prova, ma c'è anche a volte la sofferenza che Dio ti chiede di offrire per il bene altrui. Quindi tu non sai concretamente quando, cioè è difficile, cioè ci si può arrivare in qualche modo. Quindi se uno ha l'intelligenza illuminata dalla fede, prega, usa i mezzi, può farsi un'idea, sempre probabile, perché non c'è una certezza assoluta di queste cose. Ecco. Però c'è sempre, secondo me, un elemento, nel senso che il Padre Eterno non si accontenta di vincere il diavolo, ma lo vuole umiliare. Cioè vuole proprio dargli proprio le suonate, e per dargli una suonata coi fiocchi deve dargli l'illusione della vittoria. Perché dopo, capite, quando uno si pensa che è quasi arrivato, l'amarezza della sconfitta ha un sapore ancora peggiore. È stato sempre così. Quindi io mi sono dato questa risposta, chiaramente una risposta condivisa, non è mia, da persone ben più autorevoli e ben più sante del sottoscritto. Però, ecco, per questo è importante anche leggere l'Antico Testamento, cioè questa soluzione è confermata da tutta quanto una serie di episodi, di racconti biblici, dove appaiono sempre queste situazioni, che si arriva prima al limite e poi interviene. Ecco, dopo questa preghiera, vediamo subito nel capitolo 8, appare questa eroina, Giuditta, che coraggiosamente, adesso vedremo, si propone, insomma, si offre per offrire una via d'uscita a questa situazione drammatica e divenuta insostenibile. Quindi passiamo alla seconda parte del libro, qui vediamo già una scena futura, insomma. Nei primi versetti del capitolo 8 c'è la presentazione di Giuditta, che è bene andarla a leggere. Allora, in quei giorni Giuditta venne a conoscenza di questi fatti. Compare all'improvviso questa figura femminile. Era figlia di Merari, figlio di Os, figlio di Giuseppe, figlio di Oziel, figlio di Chelchia, figlio di Anania, eccetera, eccetera, va bene. Suo marito era stato Manasse, della stessa tribù e famiglia di lei. Era morto al tempo della mietitura dell'orzo. Mentre stava sorvegliando quelli che legavano i covoni nella campagna, fu colpito da insolazione, a disgrazia. Dovette mettersi a letto e morì a Betulia, sua città, e lo seppellirono insieme ai suoi padri nel campo che sta tra Dotaim e Balamon. Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano già passati 3 anni e 4 mesi. Si era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta di sacco, ed anche lei, e portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie dei novi luni, le feste e i giorni di gioia per Israele. Aperta parentesi, questo ci fa capire che non si digiuna, cioè, salvo che non vi dia il permesso il vostro padre spirituale, dato che voi portate tutti il cilizio e digiunate, ovviamente, non si fanno queste cose le domeniche e le solennità di precetto, perché la gioia del Signore in quei giorni è la nostra forza. Quindi salvo casi rarissimi, che non si concedono quasi mai. Era bella d'aspetto e molto avvenente nella persona. Inoltre suo marito Manasse le aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni che ora continuava ad amministrare. Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio. Quindi viene presentata l'immagine di una donna santa, di una donna bella, di una donna timorata di Dio e di una donna ricca, come siete tutte voi. Ecco. Perfetta immagine della Madonna, perché la Madonna era bellissima, no, era, è bellissima, era ricchissima, non tanto di beni materiali, è ricchissima quanto di virtù, nessuno può dire una parola maligna a suo riguardo, e la Madonna era, questo era, perché non penso che in paradiso il Signore glielo permetta, una grandissima penitente. Queste cose sono degli scherzetti, sapete che San Gregorio di Tours, lo trovate sul libro Il cuore ammirabile della Madre di Dio di San Giovanni Ed, narra di aver avuto una visione della Madonna dove lei stessa gli ha detto che dall'età dei 3 anni in poi ha portato ininterrottamente sulla vita un dolorosissimo cilizio. Maria Santissima, quindi, era più penitente di, perché il cilizio di corda stretta ai fianchi fa più male del sacco, quindi era già più penitente di Giuditta. Ora, Dopo la presentazione della figura, Giuditta si presenta e fa un discorso al re Ozia e agli anziani di Israele, che adesso seguiremo. Quindi venne a conoscenza delle parole esasperate che il popolo aveva rivolto al capo della città, quindi manda la sua ancella, e a questi Cabri e Carmi dice, gli anziani della sua città: ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia, non è un discorso giusto quello che oggi avete tenuto al popolo, e quel giuramento che avete pronunciato interposto tra voi e Dio di mettere la città in mano ai vostri nemici, se nel frattempo il Signore non verrà in vostro aiuto. Chi siete voi dunque perché avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di Lui in mezzo ai figli degli uomini? Certo, voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non comprenderete niente, non comprenderete niente né ora né mai. Se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto queste cose e conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? Prima grande insegnamento. Ecco. Quando capitano delle cose dolorose, non si può pretendere di scandagliare i disegni di Dio, né si può porre Dio in condizione dell'out-out. Vi ricordate? Questa è una cosa molto grave, questa qui. Quindi costringere il Signore a dare dei tempi perché agisca secondo quello che io voglio, perché altrimenti poi faccio come mi pare. Questa è la seconda tentazione che Gesù subito nel deserto. Se sei figlio di Dio, buttati di sotto perché verranno gli angeli. Cosa ha risposto lui? Non tenterai il Signore Dio tuo. Che era la tentazione, se vi ricordate, la seconda, di Israele nel deserto, quando davanti a Massa Meriba dicono: allora, o adesso si tira fuori l'acqua oppure noi non facciamo più un passo, perché se Dio è veramente con noi ci fa bere, non ci fa morire di sete, altrimenti noi torniamo in Egitto. Questo è tentare il Signore, che non si fa. Quindi no, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, quindi non si mettono gli ultimatum al nostro Signore, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui possiamo fare minacce, né un figlio d'uomo su cui si possano esercitare pressioni. È grave il peccato del tentare Dio. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui e supplichiamolo che venga il nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a Lui piacerà. Ancora. In realtà questa nostra generazione non c'è mai stata, né in questa nostra generazione non c'è mai stata, né esiste oggi una tribù o una famiglia o popolo città da noi che adori gli dèi fatti da mano d'uomo, come è avvenuto nei tempi passati. Quindi sta dicendo: noi non ci siamo macchiati del peccato di idolatria. Allora, in passato è per questo che i nostri padri furono abbandonati alla spada e alla devastazione e caddero rovinosamente davanti ai loro nemici. Quindi questa situazione è già successa a Israele. Però in passato gli israeliti si erano allontanati da Dio, quindi erano stati da Dio castigati. Questo è quello che sta dicendo. Noi invece non riconosciamo altro Dio fuori di Lui, e per questo speriamo che Egli non trascurerà noi e neppure la nostra nazione. Perché se noi saremmo presi, resterà presa anche tutta la Giudea, e saranno saccheggiate le nostre cose sante, e Dio ci chiederà conto con il nostro sangue di quella profanazione. L'uccisione dei nostri fratelli, l'asservimento della patria, la devastazione della nostra eredità, Dio le farà ricadere sul nostro capo in mezzo ai popoli tra i quali saremo schiavi, e saremo così motivo di scandalo e di disprezzo di fronte ai nostri padroni. La nostra schiavitù non ci procurerà alcun favore, il Signore nostro Dio la volgerà al nostro disonore. Dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi, che le nostre cose sante, il Tempio e l'altare poggiano su di noi. Per tutti questi motivi ringraziamo il Signore nostro Dio, vedete, che ci mette alla prova, come già ha fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe a Mesopotamia di Siria, quando pascolava le greggi di Labano, suo zio materno. Certo, come ha passato al crogiolo costoro, con il solo scopo di saggiare il loro cuore, così ora non vuol fare vendetta di noi, ma è a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Quindi avete capito? Grandissima. Cioè, questa donna spiega il perché Israele si trova in quella circostanza. Allora, non c'è stato il peccato di idolatria, non ci sono stati peccati grandi, quindi non è possibile che Dio ci sta castigando, ci sta semplicemente mettendo alla prova, cioè ci ha portato in una situazione di seria tensione, perché noi non ci mettiamo a tentarlo, a dire o ci togli da qui entro 5 giorni o ci consegniamo alle mani dei nemici, ma rimaniamo fedeli, continuiamo ad avere fede e lo preghiamo di tirarci fuori dai guai. Questa è la prova. La prova Dio ce la dà quando ci mette in situazioni tali che appunto mettono alla prova la nostra fede. Lo troveremo questo tema molto sviluppato nel libro di Giobbe, perché siamo tutti bravi a essere fedeli e devoti quando ci va tutto tanto bene, e il diavolo va a tentare Dio contro Giobbe, dice hai visto il mio servo Giobbe? Dice, il mio servo Giobbe sta pieno dei soldi, c'è la famiglia devota, sta pieno dei figli, c'è benedetto da tutti, e che ci vuole? Ci cominciamo a fare un po' di piazza pulita e poi vediamo che succede. E Dio dice, fa piazza pulita, e quello gli pulisce tutto e poi lo pure massacra a livello fisico, e Giobbe continua a rimanere fedele. Quindi c'è quest'altra dimensione, cioè a volte Dio ci mette alla prova. È un tema biblico questo qui, quindi nella Sacra Scrittura, fratelli e sorelle, che c'è tutto, c'è. Questo che è importante conoscerla, perché tutte quante le chiavi di lettura più profonde si trovano tutte qui dentro. Che chi dice che Dio non castiga non è vero, perché nella Bibbia sta pieno di castighi, ma sta anche attestato il tema della prova, e sta anche attestato la sofferenza del giusto innocente mandato come espiazione dei peccati altrui. Tutte stanno tutte. Quindi non puoi dire questa sì e questa no. Ecco. È difficile poi nel caso concreto, vi ripeto, verificare quale è quella che ci sta riguardando adesso in questa situazione, in questo contesto, in questa realtà. Allora Ozia rispose, quello che hai detto l'hai proferito, quindi il re parla, con cuore retto e nessuno può contraddire alle tue parole. Non da oggi infatti è manifesta la tua saggezza, ma dall'inizio dei tuoi giorni tutto il popolo conosce la tua prudenza, come pure l'ottima indole del tuo cuore. Guardate che qui anche Giuditta è figura della Madonna. La Madonna è invocata come Vergine prudentissima. Sapete cos'è la prudenza? La virtù cardinale della prudenza, importantissima, definita da Aristotele come la retta ragione delle cose da farsi, è quella chiarezza mentale che, dopo che tu hai focalizzato bene le situazioni e i problemi, capisci cosa è da fare nel caso concreto. La regina di tutte le virtù, perché tutte le sciocchezze che noi facciamo sono quasi tutte dovute a mancanza di questa aurea virtù. Quindi le persone che sono molto devote alla Madonna, insegna San Luigi Monforte che la Vergine prudentissima, hanno una luce particolare nel cuore, infusa chiaramente da Maria Santissima, e quindi hanno una chiarezza di visione e San Luigi superiore alla media, ecco. Perché guardate, questa virtù è la più grande delle virtù cardinali, ma anche la più difficile da esercitare. Però il popolo sta soffrendo duramente la sete e ci ha costretti a comportarci come avevamo detto loro e a impegnarsi in un giuramento che non potremo trasgredire. Piuttosto prega per noi tu, che sei donna pia, e il Signore invierà la pioggia a riempire le nostre cisterne, e così non moriremo di sete. Giuditta rispose loro, altro aspetto su cui dobbiamo adesso soffermarci, ascoltatemi, voglio compiere un'impresa che verrà ricordata di generazione in generazione ai figli del nostro popolo. Voi starete di guardia alla porta della città in questa notte. Io uscirò con la mia ancella e dentro quei giorni, dopo i quali avete deciso di consegnare la città ai nostri nemici, il Signore per mano mia salverà Israele. Voi però non fate domande. Oh. Ecco, quindi, se avesse fatto il prete, ecco, sarebbe stato. Non fate domande sul mio progetto. Non vi dirò nulla finché non sarà compiuto ciò che sto per fare. E risposero Ozia ai capi, va in pace, il Signore Dio sia con te per far vendetta dei nostri nemici. Quindi lei si propone e raccomanda di non fare domande, ecco, perché in tante circostanze vi assicuro che non bisogna fare domande, perché tante cose non si possono dire, oppure non è opportuno dirle, perché se uno le dice c'è il pericolo che i progetti e i piani vadano in fumo. Quindi questo ricordatelo, tanto per saperlo, insomma, perché a volte qualcuno ha le tentazioni di fare un po' troppe domande. Allora, qui c'è una cosa. Preghiera di Giuditta. Allora, capitolo 9, che rimanda a un episodio che non abbiamo visto perché l'abbiamo saltato e perché adesso poi andremo a scandagliare, successo in Genesi 34, a cui Giuditta fa riferimento. Noi abbiamo saltato dopo Abramo, abbiamo saltato la storia di Isacco e di Giacobbe, perché per delle scelte, diciamo, di tempi che dovevamo fare, ne abbiamo dato un quadro sintetico. Adesso lo andremo poi a riprendere. Intanto seguiamo parte della preghiera di Giuditta. È questo l'episodio, forse è meglio che andare a leggere subito. C'era stato un bruttissimo episodio di stupro qui in Genesi 34. Zitta un po', che fai? Allora, Dina, la figlia che lì aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto, ma la notò Sichem, figlio di Camor Leveo, principe di quel territorio, la rapì e si coricò con lei facendole violenza. Ma poi gli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe, si innamorò della giovane e le rivolse parole di conforto. Quindi disse a Camor suo padre: prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quella aveva disonorato sua figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame, e Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe a parlare con lui. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto contro quei molto, perché quelli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele, e così non si doveva fare. Comunque, per farvela breve, i fratelli poi li ammazzano a padre e a figlio, quindi vendicano questo stupro, questa violenza. Allora, torniamo a noi. Cioè al capitolo 9 di Giuditta, così capiamo qualcosa dell'inizio della preghiera di Giuditta. Allora, Signore, Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano una spada per fare vendetta degli stranieri, che avevano sciolto la cintura di una vergine per contaminarla, ne avevano denudato i fianchi a sua vergogna e ne avevano contaminato il grembo per disonorarlo. Tu avevi detto: questo non si deve fare. Ma essi l'hanno fatto. Per questo hai consegnato alla morte i loro capi, e quel giaciglio usato con l'inganno fu bagnato del loro sangue. Hai abbattuto gli schiavi insieme ai loro capi e i capi sui loro troni. Hai destinato le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro spoglie alla divisione tra i figli dei prediletti, perché costoro, accesi del tuo zelo, erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue e ti avevano chiamato in aiuto. O Dio, mio Dio, ascolta anche me che sono vedova. Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che seguì. Tu hai stabilito le cose presenti e le future, e quello che tu hai progettato si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: eccoci, perché tutte le tue vie, attenzione, sono preparate in anticipo e i tuoi giudizi sono preordinati. Questo prima ce lo mettiamo in testa, e meglio, questo non mette in testa quasi nessuno, Cioè il proverbio popolare che non si muove foglia che Dio non voglia è vero. Sapete cosa significa vero? Per cui tutte le cose che ci accadono sono o volute o permesse da Dio, tutte, nessuna esclusa. Sant'Alfonso addirittura dice che se tu c'è una zanzara che ti ronza nelle orecchie e ti pizzica, è volontà di Dio. Volontà di Dio è molto difficile questa, Però Dio vuole che tu ti sorbisci la zanzara che ti dà fastidio e che ti pizzica, che gli offri quella piccola sofferenza, addirittura, o la mosca che ti ronza nel tutto. Ecco, quindi questo è bene, questo è proprio della sapienza. Cioè, se uno fosse davvero convinto di questo, ma proprio convinto, non avrebbe alcuna possibilità di essere turbato mai. Qualunque cosa accada, d'accordo. Qualcuno c'ha un po' troppa paura del diavolo. Io non ce l'ho nessuna, perché il diavolo è un cane legato. Per cui anche se fa tanto sbraita e fa tanto macello, non fa nulla di più di quello che Dio gli permette di fare. Quindi quando anche Dio gli permette di fare un gran pandemonio, e lo fa, non bisogna avere paura, perché il suo potere non è limitato. E se Dio gli permette di fare alcune cose, anche di fare alcune cose contro di te, ha dato i santi che li ammazzava le botte, te le prendi e te le offri al Signore. Per quelle botte sono date con la benedizione di Dio, e quindi te le prendi e te le offri. Perché a me le botte il diavolo non gliele ha mai date, perché il Padre Eterno non glielo permette. D'accordo? Se no me le darebbe pure a me, perché non è che fa tante differenze, basta che uno è un prete, già è antipatico, quindi se potesse li gonfierebbe a tutti quanti, ma non glielo permette il Padre Eterno. Quindi gli assiri si sono esaltati nella loro potenza, vanno in superbia per i loro cavalli, i loro cavalieri, eccetera, e non sanno che tu sei il Signore che stronchi le guerre. Signore è il tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro violenza con la tua ira. Hanno deciso di profanare il tuo santuario, di contaminare la dimora dove riposa il tuo nome glorioso, di abbattere con il ferro i corni del tuo altare. Guarda la loro superbia, fa scendere la tua ira sulle loro teste, metti nella mia mano di fedova la forza di fare quello che ho pensato. Con la lusinga delle mie labbra abbatti lo schiavo con il suo padrone e il padrone con il suo servo. Spezza la loro arteriggia per mezzo di una donna. Ecco una cosa che fa tanto arrabbiare il diavolo. Perché il diavolo, così capite anche perché Maria è così potente, l'ho anche detto oggi pomeriggio in una trasmissione in radio, il diavolo si arrabbia tantissimo di essere umiliato da una creatura umana, in più donna. Per questo che ti ho detto che il Signore non si accontenta di vincere il diavolo, ma lo vuole umiliare. E per questo che ha fatto come nemico più potente del diavolo una creatura umana e per di più donna. E questo proprio non gli può andare giù, ecco, non lo digerisce. Quindi essere vinti per mezzo di una donna, quindi la tua forza infatti non sta nel numero, quindi non sta nel numero, quindi anche se rimaniamo quattro gatti non fa meglio, ecco, non dobbiamo essere tanti ma dobbiamo essere santi, gli diceva qualcuno. Né sui forti si regge il tuo regno, tu sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Quindi vedete un'altra delle motivazioni per cui Dio porta all'estremo è perché vuole farti esercitare l'umiltà, la fiducia, l'abbandono e la preghiera. Cioè il fatto che Dio interviene anche quando sembra che non c'è più niente da fare. Avete il santo curavo Tarso, quando arriva da Tarso, gli dissero: padre, è inutile che ci mette piede qui dentro, qui non c'è più niente da fare. Risposta: non c'è più niente da fare, quindi c'è tutto da fare. Ecco, quindi Signore Dio di mio padre, ascolta la mia preghiera, fa che la mia parola lusinghiera diventi piaga e flagello di costoro che fanno progetti crudeli contro la tua alleanza e il tuo tempio consacrato contro la vetta di Sion e la sede dei tuoi figli. Da a tutto il tuo popolo e a ogni tribù la prova che sei tu il Signore, Dio di ogni potere e forza, e non c'è altro né fuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. Quindi questa è la splendida preghiera di Giuditta. Nel capitolo 10, questo chiaramente non andiamo a seguire, che succede? Giuditta prende la sua ancella e parte verso la corte di Nabucodonosor e il palazzo di Oroferne. Quindi esce da Betulia. Arriviamo all'incontro tra Giuditta e Oroferne. Allora, c'è un incontro. Possiamo leggere qualche piccolo stralcio, siamo nel capitolo 10, dal versetto 30 fino a parte del capitolo 11. Uh-huh. Allora, vennero fuori le guardie del corpo di Oloferne e tutti gli ufficiali e la introdussero nella sua tenda. Nel frattempo abbiamo saltato il passo in cui arriva la corte, eccetera. Oloferne era adagiato sul suo letto, che era posto dentro una cortina intessuta di porpora ricamata d'oro, di smeraldo e di pietre preziose. Gli annunziarono la presenza di lei ed egli uscì all'ingresso della tenda, preceduto da fiaccole d'argento. Quando Giuditta avanzò alla presenza di lui e dei suoi ufficiali, tutti stupirono per la bellezza del suo aspetto. Ella si prostrò con la faccia a terra per riverirlo, ma i servi la fecero rialzare. Allora Oloferne disse: «Sta tranquilla, donna. Non temere in cuor tuo, perché io non ho mai fatto male a nessuno che abbia accettato di servire Nabucodonosor, re di tutta la terra. Quanto al tuo popolo che abita su questi monti, se non mi avesse disprezzato, non avrei levato la lancia contro di loro. Ma da se stessi si sono procurati tutto questo. E ora dimmi per quale motivo sei fuggita da loro e sei venuta da noi. Certamente sei venuta per trovare salvezza, fatti animo, resterai viva questa notte in avvenire. Nessuno ti farà torto, ma sarai trattata bene, come si fa con i servi del mio signore, il re Nabucodonosor». Allora, Giuditta risponde: «Accogli le parole della tua serva e possa la donzella parlare alla tua presenza. Io non dirò il falso al mio signore in questa notte». Praticamente le dice, passiamo al versetto 9, «Circa il discorso tenuto da Achior nel tuo consiglio, non abbiamo udito il contenuto. Perciò, signore sovrano, non trascurare le sue parole, ma conservale nel tuo cuore, perché sono vere. Realmente il nostro popolo non è punito, e la spada non prevale contro di esso, se non quando ha peccato contro il suo Dio. Ora, perché il mio signore non venga sconfitto senza poter fare nulla, la morte si avvienterà contro di loro. Infatti si è impossessato di loro il peccato, con il quale provocano l'ira del loro Dio ogni volta che compiono ciò che non è lecito fare. Siccome sono venuti a mancare loro i viveri e tutta l'acqua è stata consumata, hanno deciso di mettere le mani sul loro bestiame e hanno deliberato di cibarsi di quello che Dio con le sue leggi ha vietato loro di mangiare. D'accordo? Per questo io, tua serva», ho saltato un pochino, siamo al versetto 16, «consapevole di tutte queste cose, sono fuggita da loro e Dio mi ha mandato a compiere con te un'impresa che farà stupire tutta la terra. Quanti ne sentiranno parlare? La tua serva teme Dio e serve notte e giorno il Dio del cielo. Ora io rimarrò presso di te, mio signore, ma di notte la tua serva uscirà nella valle. Io pregherò il mio Dio ed egli mi rivelerà quando essi avranno commesso i loro peccati. Allora verrò a riferirti e tu uscirai con tutto l'esercito e nessuno di loro opporrà resistenza». D'accordo? Allora, le parole di lei piacquero a Oloferne, quindi lei doveva trovare un sistema per farla, per rimanere lì. Adesso poi vedremo quello che deve fare. Per rimanere lì e per potersi muovere, specialmente di notte, in maniera indisturbata. E Oloferne gli dice che gli sta tutto bene. E quindi dice che sta tutto bene, e adesso arriva subito nel versetto, nel capitolo seguente, Giuditta esegue il suo piano al capitolo 12. Piano che tutti conosciamo, però lo andiamo a vedere, abbastanza famoso. Saltiamo un pochino. E al quarto giorno Oloferne fece preparare un banchetto riservato ai suoi servi e chiede di far venire questa donna. Giuditta entra al cospetto di Oloferne dinanzi a questo banchetto, subito si alzò e si adornò delle vesti di ogni altro ornamento femminile. La sua anciana l'aveva presieduta e aveva steso per terra per lei davanti a Oloferne le pellicce che aveva avuto da Bagò, eccetera. Giuditta entrò e si distese. Il cuore di Oloferne ne rimase incantato, si turbò il suo spirito e molto intenso era il suo desiderio di unirsi a lei. Dal giorno in cui l'aveva vista cercava l'occasione di sedurla. Le disse pertanto: «Oloferne, bevi e divertiti con noi». Giuditta rispose: «Sì, signore, berrò perché sento che la mia vita è oggi onorata come non mai dal giorno della mia nascita». E cominciò dunque a mangiare e bere e davanti a lui ciò che le aveva preparato l'ancella. Oloferne si deliziò della presenza di lei e beve abbondantemente tanto vino quanto non aveva mai bevuto in un solo giorno da quando era al mondo. Quindi si ubriaca e dopo che si è ubriacato viene abbattuto. Quando si fece buio i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Comunque Giuditta, fermatasi, versetto 4, presso il letto di lei, disse in cuor suo: «Signore Dio di ogni potenza, guarda il rovizio in quest'opera delle mie mani per l'esaltazione di Gerusalemme». È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi. Avvicinatasi alla sponda del letto che era dalla parte del capo di Oloferne, staccò la scimitarra di lui, poi accostatasi al letto, afferrò la testa di lui per la chioma e disse: «Dammi forza, Signore Dio di Israele, in questo giorno». E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Indi fece rotolare il corpo giù dal giaciglio e strappò via la cortina dei sostegni. Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri, e uscirono tutte e due, secondo il loro uso, per la preghiera. Attraversato l'accampamento, fecero il giro della valle, salirono il monte di Betulia e arrivarono alle sue porte. Giuditta gridò da lontano al corpo di guardia: aprite subito la porta, è con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in Israele e la sua potenza contro i nemici come ha fatto oggi. Arrivata a Betulia, nel versetto 17, c'è il famoso elogio di Ozia che contiene tutta quanta una serie di titoli mariani, adesso lo vedremo. Tutto il popolo si stupì e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: «Benedetto sei tu, nostro Dio, che è annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo». Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio. Dio compia per te queste cose a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di bene, il riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe, e ti sei opposto alla nostra rovina, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». Queste parole la liturgia della Chiesa le applica e le usa in più di qualche messa in onore della Madonna, perché più ancora che in onore di Giuditta: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. Benedetta tu fra le donne», noi diciamo nell'Ave Maria, «e benedetto il Signore che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Il coraggio che ti ha sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio», allude al coraggio di Maria Santissima, corredentrice del genere umano e intrepida e coraggiosa sotto la croce. Allora, abbiamo nei versetti 14 e 15 morto Oloferne, nei capitoli 14 e 15, scusate, gli israeliti distruggono completamente gli assiri, li mettono in fuga e vincono la battaglia. Nel capitolo 16, possiamo andarla a vedere, ci sono le parole di ringraziamento di Giuditta, possiamo leggere qualcosa di queste sue parole. Qualche piccolo, ecco: «Il Signore Onnipotente li ha respinti con la mano di una donna, infatti il loro capo non fu colpito da giovani, né lo percossero figli di titani, né altri giganti lo oppressero, ma Giuditta, figlia di Merari, lo fiaccò con la bellezza del suo volto, e la depose la veste di vedova, per sollievo degli afflitti in Israele, si unse il volto con aromi, cinse i suoi capelli con un diadema, e indossò una veste di lino per sedurlo, i suoi sandali rapirono i suoi occhi, la sua bellezza vinse il suo cuore, e la scimitarra troncò il suo collo». Va bene. «Canterò al mio Dio un canto nuovo, Signore grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu hai detto e tutte le cose furono fatte, hai mandato il tuo spirito e furono costruite, e nessuno resisterà alla tua voce. I monti sulle loro basi sussulteranno insieme con le acque, davanti a te le rocce si scioglieranno come cera, ma a coloro che ti temono tu sarai sempre propizio. Poca cosa è per te ogni sacrificio di olocausto, scusate, ogni sacrificio di soave odore, e meno ancora ogni grasso offerto a te in olocausto. Ma chi teme il Signore è sempre grande». C'è un bel quadretto: chi teme il Signore è sempre grande. Temere il Signore non vuol dire avere paura di Dio, eh? Il timore di Dio è quell'atteggiamento interiore che fa dare a Dio ciò che è di Dio e spinge a vivere una vita integerrima e intemerata e senza macchia al suo servizio e al suo cospetto. «Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo. Il Signore Onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, metterà fuoco e vermi nelle loro carni e piangeranno nel tormento per sempre». Infine, c'è il ritorno glorioso a Gerusalemme, nei versetti 18 e 20 del capitolo 16, e seguiamo anche poi le vicende della vecchiaia e della morte di Giuditta. Così concludiamo. Quando giunsero a Gerusalemme, si prostrarono ad adorare Dio, e appena il popolo fu purificato, offrirono i loro olocausti, le offerte spontanee e i doni. Giuditta offrì in voto a Dio tutti gli oggetti di Oloferne che il popolo le aveva dato, e anche la cortina che aveva preso direttamente dalla camera di letto, da letto di lui. Il popolo continuò a far festa a Gerusalemme vicino al Tempio per 3 mesi, e Giuditta rimase con loro. Dopo quei giorni tornò nella propria dimora, e anche Giuditta tornò a Betulia e rimase nella sua proprietà. Per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Molti se ne invaghirono, ma nessun uomo la conobbe per tutti i giorni della sua vita, da quando suo marito Giacobbe morì e fu riunito al suo popolo. Quindi la prima vedova degna di questo nome. Ella andò molto avanti negli anni, protraendo la vecchiaia nella casa del marito fino a 105 anni. Concesse pure la libertà alla sua ancella preferita. Quando morì a Betulia, la seppellirono nella grotta sepolcrale del marito Manasse, e la casa di Israele la pianse per 7 giorni. Prima di morire aveva diviso i suoi beni tra i parenti più stretti di Manasse, suo marito, e tra i parenti più stretti della sua famiglia. Non vi fu più nessuno che incutesse dimora agli israeliti finché visse Giuditta, e per lungo tempo dopo la sua morte. Quindi una parola conclusiva: la vedovanza, quindi il fatto che questa è una donna bellissima e nessuno l'ha toccata dopo la vedovanza, qualcuno l'ha visto come remoto, diciamo così, remoto segno prefigurativo del valore dell'eccellenza. Ai tempi di Giuditta non si poteva rimanere vergini, però difficilmente una vedova rimaneva tale per tutta la vita. Era molto difficile, perché non c'erano anche delle leggi che, se qualcuno rimaneva vedova, doveva essere sposata dalla moglie del fratello. Le conoscete anche le cose della Bibbia. Ecco, aver fatto questa scelta, qualche autore l'ha interpretata un po' come figura prefigurativa, ecco, anche della verginità e della purezza assoluta di Maria Santissima. Bene, penso che ci possiamo fermare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.